C'è la norma che blocca i diritti, le tariffe che vengono addebitate dalle pubbliche amministrazioni come contropartita dei servizi pubblici erogati, per esempio la motorizzazione. Dal 1 gennaio quelle voci sono congelate, non possono salire rispetto al 2008. L'altro universo, i pedaggi, è previsto che ci sia una sospensione dell'aumento dei pedaggi in funzione della definizione di un piano industriale. Bollette devono scendere e abbiamo attivato dei meccanismi per farle scendere, interni alle authority, ma dei meccanismi, delle procedure che riteniamo, identificando delle aree di inefficienza e spingendo in una logica di trasparenza, faranno scendere le tariffe. Se avessimo bloccato le tariffe avremmo prodotto un effetto negativo, perché comunque cadendo il costo delle materie prime sarebbero scese. Noi vogliamo che scendano di più o diverso, anche in dipendenza di una diversa azione delle authorities, rimuovendo delle realtà che abbiamo notato essere poco, come dire, efficienti e poco corrette nei confronti dei consumatori.